spettacolo del Circo delle Pantegane. Aspettavo tutta sta monnezza qua. Come Pluto, fiuto, rifiuto, chiolezza. E trovo toponini di immensa grandezza. Gli infanti dei turisti li credono figuranti all'Euro Disney. È diventato un vero business. Foto col topo 6 euro fissi. L'acqua è privata, talmente privata, che l'hanno privata ai condomini. Hanno domini qui per lavarmi. Mi faccio sputare da baldi giovani. E la sera qui si gela. Accendiamo focolai di colera. Sotto la tenda ci fence gialla di febbre nera, di peste nera. E tu mi chiedi come va. Va bene. Ancora chiedi come va. Va bene. La vita al Circo delle Pantegane. La vita al Circo delle Pantegane. Tu mi chiedi come va. Va bene. Ancora chiedi come va. Va bene. La vita al Circo delle Pantegane. La vita al Circo delle Pantegane. Nella tenda righe topo gigan spara sulla folla ma non la uccide. Il domatore ha lo zampirone per domare la zanzara tigre. La donna cannone vola su Venere, deve contenere malattie venere. Il mio pesce pagliaccio non esce dal ghiaccio, sembra nemmeno un'anemone. Igiene demode, te l'ho detto, ma ti aspetto, vieni da me che ti infetto. Mi sono fatto attaccare una piattola per vedere come portare a letto un insetto. Vedo parassiti più che ne partiti, case di abrasi da pruriti, prostituti con le prostatiti, linfonodi come meteoriti. E tu mi chiedi come va. Va bene. Ancora chiedi come va. Va bene. La vita al Circo delle Pantegane. La vita al Circo delle Pantegane. Tu mi chiedi come va. Va bene. Ancora chiedi come va. Va bene. La vita al Circo delle Pantegane. La vita al Circo delle Pantegane. Mia cara, anche noi ci facciamo i viaggi. Meno tre, meno due, meno uno. Contagio alla rovescia. Facce più pallide di una geisha, vanno in trance. La febbre sale di 40 bar. Se puoi prendere la SARS con un morso al Mars. E se mordi una Stark Delicious, diventi topo come Peter Minus. A che cosa mi aggrappo? Ora che pure la coperta di Linus è coperta di virus. E la contorsionista è denutrita. Giro vita di una girospita. Debole come il pensiero di Vattimo. Datene un barattolo, ma chi lo svita? Vita nera, c'è una schiera di gente che va funghi sulla schiena. Equilibristi con le cisti sui trapezzi vomitano pezzi di cena. E tu mi chiedi come va. Ancora chiedi come va. Va bene. La vita al Circo delle Pantegane. La vita al Circo delle Pantegane. Tu mi chiedi come va. Va bene. Ancora chiedi come va. Va bene. La vita al Circo delle Pantegane. La vita al Circo delle Pantegane. Topo, ma ti vuoi riprendere? Non ce la faccio, non posso. Non ce la faccio, non posso. Devi riprenderti. Dimostra che sei un vero uomo. Ti sfido al pugnometro.